Mi ha commosso pietà. Lasciamo lei dei suoi martiri pene, e in queste verdi pianticelle amene verghiamo noi le nostre gioie occare. Sì, crescano le tenere cortecce, in loro il testimon del nostro ardore. E in ogni cor gentil servo d'amore brilli per noi lo spirito. Io vergo questo allone, io questo mirto.